Ciao, siamo a Bologna, siamo lo Stomp, siamo qui con Riccardo Balli, ciao, DJ ciao. Balli. E niente, sono passato a Bologna a trovarlo e siamo qui al suo shop, lo shop di... Ma non lo introduco io per niente perché lui parla meglio di me e quindi... Raccontaci dove siamo e tutto il resto, vai. Sì, dunque siamo allo shop di Sonic Belligeranza Record, la mia etichetta, e sostanzialmente che è questa stanza, no? È bella carica di supporti fisici e libri o fanzine musicali. Sostanzialmente, oltre ad avere una distribuzione online su Discogs attiva da ormai quasi 20 anni, ho trovato questa soluzione del insediarmi in bar e portare avanti in orario tardo pomeridiano serale notturno un discorso di shop appunto dedicato ai formati musicali, quindi vinile, CD e cassette, ma anche cose più particolari tipo floppy e formati inusuali come flexi, eccetera eccetera. E il progetto va avanti da 7 anni, sempre a Bologna, in diverse situazioni, e siamo adesso qua in via Mascarella, quindi una zona valida, vicino al Modo Info Shop, la libreria bar. E potete passare e farvi un buon vino marchigiano, perché poi è titolare pure delle Marche. Sì, è vero, sì, potete, anzi assolutamente venitemi a trovare. E l'idea è proprio quella di spingere questa nicchia dei nerd dei dischi. E soprattutto anche del suono davvero hard, no? Sì, certo, ovviamente. Sono in belligeranza delle chicche. Sì. Ovviamente sì, lo shop è specializzato sostanzialmente in musica dance floor estrema, quindi techno hardcore, gabber, breakcore, 8 bit, extra tone, quindi sonorità elettroniche orientate al ballo, ma sparate. Poi vabbè, siamo forti anche nel noise industriale, e un sacco di release rare, eccetera eccetera, ma comunque devo dire che lo shop è a 360 gradi, nel senso che tiene il supporto fisico a 360 gradi. Escludo solo la musica classica, perché, e non perché non mi piaccia, tutt'altro, ma perché non mi voglio mettere in quel mercato, perché richiede tutto un altro tipo di formazione e di punto vendita, ecco. E comunque il DIY come chiave sempre di lettura, insomma. Sì, assolutamente, esattamente. Fai bene a precisarlo, perché lo consideravo ovvio, ma questo è il punto chiave. È un peccato che mo non è che prendiamo telecamera e cominciamo a far girare, però insomma siamo a Bologna, in via Mascarella, quindi quando volete... Ecco. Sì, un giro venitevelo a fare, siete sempre molto... mi fa piacere, appunto. È un punto che vuole spingere verso la socialità dei nerd dei dischi, ecco. E senti, invece poi vado un po' su così, non vado a braccio perché non sono bravo in queste cose, però, e questa è un'esterna che io non farei mai un'intervista in vita mia, però dici a secco quali sono i consigli per gli acquisti, cioè nel senso di tutta questa musica che c'è qua dentro, c'è una valanga di roba, prendi un paio di dischi, non è preparata la cosa, no, assolutamente no. mi piace, no, però prendi delle robe e la possiamo anche ascoltare. Ovviamente ti prendo, tanto per continuare a essere ironico, ti prendo ovviamente un disco di Sonic Belligeranza, che è la dato che abbiamo ristampato proprio adesso il disco Tweet It Sonic Belligeranza 10 Extra Tone Mix, il disco di Extra Tone. L'Extra Tone, per chi non lo sappia, è un'estremizzazione dello speedcore, in cui sostanzialmente si parla di musica sopra i 1000 bpm, musica quindi così veloce in cui la cassa non è quasi più percepibile e diventa lenta, diventa quasi un drone. Quindi scusami se ti l'invasione di campo. Abbiamo Infatti. Stampato questo picture disc 12 pollici, 180 grammi, cui siamo autori DJ Balli e Ralph Brown, che è un disco comunque che ha fatto parlare di sé, perché diciamo è un unicum, credo che sia l'unico disco stampato a 1400 bpm. E adesso magari vi faccio sentire un attacco di extra tone, così un po' a caso, no? Sparandovelo dritto per i trapani oculari. Si ascolta così, vai vai. Questo simboleggia la forza, la potenza nello speedcore. Questi, vedi, è talmente veloce la cassa che diventa lenta. Tu puoi fare questi giochi, no? Sembra quasi un aereo in atterraggio. Sei un pilota, sei un pilota. Sì, è un pilota, no? Aeronautico. Vai, vai, fai l'aeroplano italiano, bravissimo, sta volando. Ecco, le uscite di emergenza sono sul retro, davanti. E con questi richiami. Sì, poi questi campioni, no? Che non c'entrano un cazzo, fatti apposta. Reprise. Tweet it. Tweet it, extra tone mix. Facciamo sentire un po' di nota, sì, in si sì. bemolle. Eccola, si bemolle. Che tutti quanti si staranno chiedendo, ma perché scuotono la testa? Infatti non bisogna scuotere la testa, è solo questo. Benissimo, benissimo. Ma link di ascolti e acquisti, quindi tutto su pagina Facebook, Sonic Belligeranza. Sì, sì, ho anche abbasso. Basso, lascio andare. No, dopo lo controlliamo. Volendo, dopo. Per chi già è dentro il mondo dei dischi, c'è l'account seller di Sonic Belligeranza, discogs.com/Sonic Belligeranza. Lì trovate le offerte. Le offerte che faccio, che facciamo. In negozio, però, c'è molto di più. Fai conto che sull'account, certo, su Discogs ci sarà un decimo di quello che ho in giro. Questo è Michael Nyman, l'autore delle colonne sonore di molti film di Greenaway. Qui ancora un altro campionamento improprio. E poi sì, dal sito sonicbelligeranza.com c'è anche la vendita, per esempio, di questo EP, come di tutti gli altri dischi della mia etichetta, ecco. Primo consiglio per l'acquisto. Primo. Il secondo? Cosa lanciamo? Come secondo ascoltiamo qualcosa di diverso. Mi è arrivata rimaniamo sempre in campo techno hardcore Gabber, e ascoltiamo questa bombetta, We Came to Hull. Guardate la copertina, spero che cioè siamo venuti per Hull, come hooligan, per vandalizzare. Dogge Team è uno dei tanti soprannomi di questo produttore tedesco di Francoforte, Mark Trauner, ovvero PCP, ovvero, non so, un altro nome famoso è Mescalinum United. E come Mescalinum United, lui nel 1989 ha fatto questa traccia We Have Arrived, che è forse la prima traccia che della techno hardcore, e questa è un altro suo AKA, un altro suo moniker, un altro suo pseudonimo, appunto Dogge Team, e ci andiamo a sentire appunto la traccia omonima, appunto We Came to Hull, siamo venuti per vandalizzare. E sono dischi che sono saltati fuori, erano dimenticati da qualche parte in una distribuzione che si chiama Sinapsi, una distribuzione di techno hardcore italiana degli anni 90, e che mi sono arrivati fra le mani. E ho ottimi prezzi, tipo 5 euro, insomma sono dischi nuovi che io cerco di spingere, ecco, perché mi interessa comunque fare conoscere questa sottocultura musicale così poco considerata come la techno hardcore Gabber. Sentiamo We Came to Hull, Dogge Team. Vai, sentiamocela. Listen to me, what are you fucking stupid? There's a fucking crowd out there! Don't worry about it. Get it down to the bone, cause you can't take it with you. Get it down to the bone, cause you can't take it with you. Get it down to the bone, cause you can't take it with you. Get it down to the bone, cause you can't take it with you. Get it down to the bone. Un pugno diverso. È una bomba. è arrivata la cassa, l'hai sentita Ale? Grossa roba. Questa è appunto Gabber old school proprio. In realtà techno hardcore proprio. Volendo parlare un po' di questa sottocultura musicale, è nata vieni come qua genere, con noi, vieni qua, vieni qua. Sì, poi quello è nata andare. Come genere appunto a Francoforte, come una velocizzazione della techno, dei BPM della techno, e con suoni industriali da fabbrica, cupi, duri. Poi a Rotterdam invece in Olanda c'è stata la nascita della sottocultura gabber anche in senso di abbigliamento eccetera eccetera, e poi la gabber si è anche diffusa come tipo di suono all'interno della techno hardcore. Ma ricordiamo sempre il tuo libro in tutta questa cosa? Sì, lo prendo qua, così facciamo proprio una televendita completa, lo do a te. Sbrang Gamba Gang, una delle poche monografie su queste realtà sonore minoritarie. Sì, diciamo. Sì, comunque compratelo, insomma, per Agenzia X sta qua. E poi da noi sei venuto lì a Civitanova, insomma, sì, a presentare, per fare la presentazione. Esatto. È stata anche una super serata. Molto molto figa. E anche cosa abbiamo fatto giù? Anche Frankenstein? No, Apocalypse. Sì, quello sul mashup. Mashup, sì. Ne ha fatti un po' tutti, devo dire, grazie a te. Nelle Marche sei sempre. Sì, c'è sempre un'attenzione, sì. Capito? Diciamo proprio DIY. Che viene dal punk, però una curiosità a 360 gradi che spesso non c'è a voi. Io mi ci sto avvicinando tanto a tutta sta cosa, perché è proprio, cioè, comunque quello che è estremo e che spinge sull'acceleratore della, proprio che fa proprio mischiare tutti i neuroni, capito? Che ti shakera, sì, sì. Il cervello. Sì, sono musiche queste, tipo andare a recuperare la techno hardcore, che è difficile che adesso ti incappi, ecco. Però è bello riascoltare, hanno, cioè, questo tipo di musica, la techno hardcore gabber, fai conto che volendo fare una semplificazione sta al se quello che è il punk e il metal stanno al rock, questo sta alla gabber, alla tech, il lato oscuro. Il lato oscuro. Senti, andiamo un pochino avanti, intanto ascoltiamo. No, lascia. Andiamo. Allora, di tutto questo, ok, intanto abbiamo fatto un po' una panoramica. E una roba, la domanda classicona è cosa bolle. Vediamo un attimo il telefono. È importante, vedi un po'. Oh, qua, raga, tutto diretto, tutto cosa molto easy, eh? Vai, sì. E cosa bolle in pentola? Ah, il classicone, sì. Vai. Dunque, appunto, vabbè. Per DJ Balli. Sì. Bolle in pentola, vabbè, rimango in tematica. L'edizione in inglese di questo libro, che sarà un'edizione speciale. Perché avrà anche, beh, tutto il libro è tutto giocato su questo parallelo tra la gabber hardcore e il futurismo, no? L'idea è che sono entrambi sottoculture che hanno il culto della velocità, della guerra, e hanno anche, tra l'altro, ad accomunare questa cattiva nomea di essere in qualche modo destrosa. Sì, sì, filo fascista, filo, sì, nazista. Sì, sì. Che non è vero nel caso della gabber. Ma infatti, guarda che anche se ci sono i gabber di destra. Ma guarda che attenzione. Ci chiudiamo, e ci sono anche i punk di destra. Quindi esatto, certo, esatto. Però la chiudiamo anche il cerchio proprio col discorso che è la musica a 360 gradi come espressione e come anche lettura, però delle provare a leggere il reale. Quindi ci può essere musica e anche. Mi sono perso, mi sta, sai? Vai, continua. Insomma, dopo quando la ridico. Ok, beh, io stavo dicendoti sostanzialmente che cosa bolle in pendola è questa edizione inglese del libro, che avrà rispetto all'italiana anche delle immagini in 3D e degli occhialini in 3D, ognuno ad ogni copia, e in cui sostanzialmente si vedono delle immagini che se guardi da una lente vedi il quadro futurista, se guardi dall'altro vedi qualcosa di gabber, ecco. Minchia. Quindi c'è questo divertente feature che caratterizzerà l'edizione inglese. Poi sto facendo un disco per la Mocum, che è un'etichetta old school, appunto, di gabber hardcore di Amsterdam, l'etichetta nota per avere il logo gabber antifascista e antirazzista. È un classico, faccio vedere la copertina dei dischi, ecco questo martello, con il logo qua, antifascista ed anti-racist Gabber. È un grande onore per me, hanno già fatto 210 uscite discografiche, è un grande onore uscire per questa etichetta di Gabber olandese, che è un po' il covo della mia idea di techno hardcore a sinistra. Certo. Bello, cazzo. United Gabbers Against Racism and Fascism. Ma ci mettiamo sotto questo? Andiamo ad ascoltarlo. Vai, allora andiamo ad ascoltare questo. Dai, mettiamolo sotto. Perché qua stiamo ascoltando anche tutto quanto direttamente dal Technics di Bali. E, insomma, una pentola che bolle sempre. Ma ci si prova a farla bollire anche. La pasta la butti, la tiri fuori, come un ristorante sei, metti dentro e tiri fuori. Se non la fai bollire qua non si va avanti. Bene, a proposito di questo, no? Dell'acqua che bolle, butti la pasta, tiri fuori la pasta, cioè c'è stato un momento in cui, insomma, è anche tuttora, cioè, è un po' tutto oscuro, no? Con questa storia Covid, bla bla bla bla, in cui l'acqua bolle ma non riesci a mettere la pasta dentro, nel senso che dici, quale sarà la prossima occasione per muoversi, cosa fare, cosa non fare? Ma cosa fare e cosa non fare non lo so bene. Cioè, come vedi da qui a sei mesi? Io devo dire che rinizio a suonare adesso ad agosto, dopo un lungo iato, e sono contento. Suono sia a Bologna sia in Puglia, che è un posto dove ci sono degli indici RT molto bassi e continuano a esserci dei festival all'aperto. Di musica elettronica, e poi anche in Veneto, poi andrò in Svizzera a settembre. Insomma, io sto reiniziando a fare qualcosa. La situazione mi sembra comunque ancora assolutamente non risolta. Vedo che in altri paesi tipo la Spagna, ma anche la Francia e anche in Germania hanno dei problemi. E qua a Bologna la situazione, appunto, c'è un giorno con 24 nuovi contagi, un altro giorno 3. Ma la situazione è ancora delicata. Io credo che sostanzialmente, per quello che riguarda la gente che fa i DJ o i musicisti, quest'anno scorrerà senza così. Speriamo che magari, se non dalla primavera, che la data mi sta candidata come quella della ripartenza, magari già da gennaio si possa fare qualcosa di più solido. Comunque io mi sono già rassegnato a essere sostanzialmente poco casalingo, sì. Magari produttore, concentriamoci sulle produzioni, sul mixare, sull'ascoltare musica. Comunque questa cosa non spezzerà quello che è stato finora, insomma. No, non deve, assolutamente. Perché io sono sincero, però già comunque non è molti anni che partecipo sia in maniera attiva, anche solo girando, in quello che è il DIY, cioè nel senso l'organizzazione di eventi, il fare musica e il produrre praticamente per nessun tipo di rientro economico, solo per il fatto di poter reinvestire in altre produzioni, continuare a suonare. Esatto. E comunque non da ora, sinceramente, da qualche anno che sento un po' di stanca, però di situazione un po' pesante, cioè i posti ci sono ma un po' meno, le scelte che si fanno sono non più tanto estreme, quindi la musica estrema fa forse un po' più difficoltà ad uscire fuori dal... cioè fare 20 date attaccate, cioè è una cosa che magari 20 anni fa si poteva fare, adesso assolutamente no. Beh, sì. Non so, magari dico una cagata grossa. No, se è una tua impressione. Cioè, io vado in giro e mi rendo conto che, insomma, mi ritrovo sempre meno con quello che vorrei trovare di fronte a me, capito? Magari le mie aspettative sono aumentate nel tempo, però non lo so. No, io ti dico che è sempre stato molto difficile, spingendo queste sonorità magari di nicchia, eccetera, eccetera. Ci sono alti e bassi, diciamo che se ci credi e ti continui a esaltare la cosa e a dare della carica, vai avanti, se no ti fermi, ecco. Nello specifico adesso c'è stato proprio questo grave fatto della pandemia, che ha un po' rivoluzionato tutti gli equilibri e anche sociali, di questa microeconomia, socialità. Sì, oltre anche di questa microeconomia di gente che si cerca di occupare di musica a livello indipendente. Però vediamo cosa, che scenari ci possono aspettare, ecco, non diamoci per vinti, quello mai. Magari io spero solo che, ecco, da tutto questo esca fuori un po' di rivalutazione proprio da tutta questa faccenda, dal farsi il culo per fare le cose, e quindi spero in più partecipazione in generale. Cioè, so che dicendo una cosa del genere sembro tipo il candidato di qualche partito di genere, no, comunque ci vuole più partecipazione perché noi ci facciamo il culo, no, non è, c'entra poco. Insomma, incontriamoci e facciamo le cose, perché sì. Questa è la cosa fondamentale. Sì. Guarda, la chiudiamo così, ricavo di qualcosa, bene. Insomma, che ne so, tipo un vaffanculo pure. Ringrazio gli amici del Jolly. Sì, questi sì, è tutto Jolly e ricordo Never Surrender Station, quindi Never Surrender Station. Ci ritroviamo lì in studio e spero di venire dalle vostre quanto prima, che vuol dire speriamo. È finito. Speriamo che succeda qualcosa di bello. Certo. Lì in zona. Sempre in contatto. Ciao. We'll be right back.